24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo ultimo appuntamento 2012 con le notizie dall'Europa. In apertura il summit tra UE e Russia che si è tenuto ieri a Bruxelles. Molte le frecciate, ma nessun progresso. Tensione al vertice tra Unione Europea e Russia. Il braccio di ferro sulle questioni energetiche ha bloccato ogni progresso. La Russia ha contestato le leggi comunitarie antitrust che di fatto limitano l'attività in Europa del gigante del gas Gazprom. Il presidente russo Vladimir Putin ha preferito cambiare argomento e passare al contrattacco proprio sulla delicata questione dei diritti umani. Siamo preoccupati per la vergognosa violazione dei diritti delle minoranze russofone in alcuni paesi europei, nei paesi baltici in particolare, ha detto Putin. Siamo preoccupati di come alcuni scarti della società neonazisti siano trasformati in eroi. Più moderati i toni del presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, che aveva sollevato la questione del rispetto delle libertà di associazione delle ONG russe. L'Unione europea, ha sottolineato Van Rompuy, è profondamente convinta della necessità di creare spazi per la società civile per ottenere un'effettiva modernizzazione dell'economia e della società. A causa delle forti divergenze su energia, diritti umani e su alcune relazioni commerciali, si allontana intanto la completa liberalizzazione dei visti. Un obiettivo delle autorità russe in vista delle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014. La Commissione UE ha dato il via libera ai piani di ristrutturazione delle banche spagnole del gruppo 2, che apre la strada alla loro ricapitalizzazione via l'ESM per un totale di 1.865 milioni di euro. Secondo l'antitrust UE, i piani di ristrutturazione delle quattro banche sono in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato, in quanto permetteranno loro di ritornare sostenibili nel lungo periodo senza il sostegno pubblico. Inoltre, gli istituti hanno adeguatamente contribuito ai costi della ristrutturazione, che ha sufficienti salvaguardie per limitare le distorsioni della concorrenza dovute agli aiuti. La decisione della Commissione UE di non chiedere all'Italia il recupero dell'ICI non pagata da Chiesa e no profit tra il 2006 e il 2011 è stata dettata dal buonsenso. Lo ha affermato il commissario UE alla concorrenza, Joaquín Almunia, sottolineando che si tratta di una decisione che riconosce la realtà della impossibilità pratica del recupero. Abbiamo analizzato le possibilità di recupero di quelli che nella decisione di ieri sono stati definiti aiuti illegali e la conclusione a cui è giunta Bruxelles è che era praticamente impossibile procedere, ha spiegato Almunia. Il problema, infatti, è che il destinatario di questi aiuti non è la Chiesa Cattolica o un'associazione collettiva delle ONG, ma, ha continuato il commissario, destinatari che erano entità singole. Da qui la prima assoluta nella storia UE degli aiuti di Stato di non ingiungere il recupero del maltolto. L'importante però è stato il riconoscimento giuridico, ugualmente per la prima volta, che il tipo di esenzioni fiscali di cui hanno beneficiato gli enti non commerciali italiani tra il 2006 e il 2011 costituiscono aiuti di Stato non compatibili con i trattati UE. Questo è il primo punto da notare, ha concluso Almunia. Segno meno per i listini del vecchio continente. Londra ha perso lo 0,31%, Francoforte ha segnato un meno 0,41%, Parigi ha limitato le perdite a un meno 0,15%. Lo stallo sulle trattative per il budget degli Stati Uniti continua a preoccupare i mercati finanziari. A Piazza Affari il FTSE MIB ha ceduto lo 0,4%, il FTSE All Share lo 0,37%. Il bilancio settimanale è comunque positivo per Milano, che mette a segno un guadagno del 4%. L'ultima seduta è stata caratterizzata dalle vendite sul settore bancario, che aveva corso molto nelle giornate precedenti e che ha risentito di un nuovo allargamento dello spread fra titoli di Stato italiani e tedeschi attorno a quota 310 punti base. Il Banco Popolare ha ceduto il 2,7%, BPER Popolare di Milano e Unicredit il 2%. Giù anche i titoli della Galassia Unipol Fonsai all'indomani della definizione del progetto di fusione. Il titolo più penalizzato è stato quello della Milano Assicurazioni, meno 5,7%, che rischia di rimanere fuori della fusione a 4 con Premafin, Fonsai e Unipol Assicurazioni se gli azionisti di risparmio della società non approveranno il progetto di integrazione. Giornata positiva invece per Impregilo, che ha guadagnato il 2,5% e che della presentazione del piano industriale una decina di giorni fa ha fatto segnare un più 10%. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. L'Unione Europea accoglie con favore la decisione dell'Alta Corte del Kerala che consente ai due marò italiani di tornare a casa per Natale e resta impegnata nel caso, in pieno sostegno delle autorità italiane, aspettando il giudizio della Corte Suprema. Così l'alto rappresentante della politica estera UE, Ashton, in un comunicato. Adesso la crisi in Siria, in Libano e Giordania i rifugiati siriani sono già 500.000 e se il conflitto proseguirà in pochi mesi questa cifra raddoppierà. È l'allarme lanciato dal commissario UE agli aiuti umanitari Kristalina Georgieva al rientro da una visita nei due paesi. La Commissione europea ha quindi deciso di assegnare altri 21 milioni di euro di aiuti per rispondere ai bisogni dei profughi. Dei nuovi aiuti europei per l'assistenza ai profughi siriani, 10 milioni sono destinati al Libano e altri 10,85 milioni alla Giordania. La decisione, afferma il commissario UE alla politica di vicinato Stefan Füle, costituirà un ulteriore aiuto alle famiglie che fuggono dalla violenza in Siria e alle famiglie che le ospitano. I nuovi interventi umanitari finanziati da Bruxelles saranno mirati a rendere accessibile l'istruzione primaria e i relativi servizi ai bambini dei rifugiati, dando anche un sostegno psicologico e un'assistenza specifica per l'infanzia. Quasi il 60% dei siriani scappati dalla guerra è costituito da under 18. Uno spettacolo devastante che richiama tutti all'urgente responsabilità di fare molto di più e meglio per le migliaia di persone che soffrono in Africa e nel resto del mondo. Così il vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella ha lanciato un appello alla solidarietà internazionale dopo aver visitato il campo profughi di Maio nei pressi di Khartoum, la capitale del Sudan, dove circa 400.000 persone vivono in condizioni di assoluta precarietà. All'UE, ha aggiunto Pittella, va certamente ascritto il merito di avere cofinanziato il centro pediatrico di Emergency e di essere il principale donatore nel mondo, ma questo non deve appagarci. Il ministro delle finanze dell'Olanda, Disse Bloem, può diventare presidente dell'Eurogruppo. Lo ha affermato l'attuale presidente, Jean-Claude Juncker, in un'intervista alla radio pubblica lussemburghese, spiegando che i ministri dell'Eurozona saranno chiamati a votare i futuri candidati, probabilmente solo l'olandese, durante la prossima riunione di gennaio. Nella battaglia Apple-Samsung è intervenuta la Commissione europea per il sospetto che le ingiunzioni di Samsung contro Apple in Europa per i suoi brevetti essenziali legati agli standard della telefonia mobile può costituire un abuso di posizione dominante. Se infatti il ricorso alle ingiunzioni è possibile in caso di violazione dei brevetti, questa può essere abusiva per quanto riguarda quelli essenziali. Solo 4 giorni fa Samsung aveva ritirato le ingiunzioni in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Olanda e ieri il commissario UE alla concorrenza Joaquin Almunia ha rimarcato che non conviene abusare dei diritti sulla proprietà intellettuale se sono essenziali per gli standard industriali che portano vantaggi a imprese e consumatori. E visto che Apple vuole negoziare con Samsung una licenza per l'uso di questi standard di base per gli smartphone, il ricorso alle ingiunzioni può essere assimilato ad una pratica anticoncorrenziale. Ora, se l'indagine di Bruxelles proverà le violazioni delle norme UE sulla concorrenza, Samsung rischia una multa fino al 10% del fatturato mondiale annuo. Nel 2014 sarà più facile per chi vive in un paese diverso da quello di cittadinanza candidarsi alle europee. Il Consiglio dei Ministri dell'UE ha adottato una proposta della Commissione europea per la semplificazione della normativa che ha già ricevuto l'approvazione dell'Eurocamera. Sin dal 1992 i trattati prevedono il diritto dei cittadini europei di candidarsi nel paese di residenza al di là della cittadinanza di origine. Con il nuovo regolamento la candidatura dovrà essere ammessa anche se lo stato di origine non avrà trasmesso entro 5 giorni lavorativi tutte le informazioni pertinenti, come la fedina penale, necessarie per la candidatura. Abbiamo bisogno che i cittadini rappresentino una voce forte nella costruzione di un'unione politica più energica, ha detto Vivian Reding, vicepresidente e commissaria europea per la giustizia e la cittadinanza, e la partecipazione alle elezioni europee è il modo più importante per i cittadini di farsi sentire nell'UE. Per la prima volta, tutti i cittadini possono accedere in rete, tramite la biblioteca digitale europea europeana.eu, a 1 milione di immagini storiche di 10 tra le principali agenzie di stampa europee. Una volta individuate le immagini di proprio interesse, visualizzabili in media risoluzione con watermark, l'utente può contattare attraverso il portale www.eurofoto.eu.com le singole agenzie per acquistarle. La biblioteca digitale europea è un'iniziativa della Commissione europea che mette attualmente a disposizione dei cittadini in formato digitale più di 20 milioni di documenti, foto, audio, video, considerati patrimonio storico e culturale comune, provenienti da fonti varie, biblioteche, musei, istituzioni culturali, archivi privati di tutti i Paesi membri. Il premio Nobel per la pace ricevuto dall'Unione Europea finanzierà 4 progetti a sostegno di oltre 23.000 bambini siriani, colombiani, congolesi e pakistani vittime di guerre e conflitti. La dotazione del premio è di 8 milioni di corone norvegesi, pari a poco più di 1 milione di euro, che l'Unione Europea ha deciso di integrare portandola a 2 milioni di euro. Destinatari del finanziamento sono, tra gli altri, l'UNICEF, che si occuperà di 3.000 bambini pakistani nelle zone di conflitto del nord del paese, e Save the Children UK, che assieme al Consiglio norvegese per i rifugiati darà assistenza a 11.000 congolesi sfollati nelle regioni orientali del Congo e in Etiopia. L'iniziativa Children of Peace non sarà un una tantum, ha assicurato il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, rendendo noto che nei prossimi anni l'Unione europea metterà a disposizione nuovi finanziamenti per un numero maggiore di progetti di assistenza. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.